Adesso ci facciamo spiegare da Gabriele la storia, no? Che c'è dietro una storia, a questa canzone. Sono molto curioso. Ti chiedeglielo e quindi vai subito così. Benvenuto Gabriele. Ciao, Gabriele. Benvenuto Gabriele, che è il frontman della scimmia. Sì, sono io. Niente, sei qui con noi, quindi abbiamo dato il benvenuto perché siamo delle persone educate. E quando qualcuno viene in casa nostra gli diamo il benvenuto, ma non possiamo dargli il caffè, i biscottini, perché ovviamente è un benvenuto solo telefonico. E io il caffè non posso berlo perché mi viene bruciore di stomaco. Ah sì, ma questo l'abbiamo già detto. E quindi vabbè, il caffè lo faccio lo stesso agli ospiti, anche se io non posso berlo. Ma detto questo, Gabriele, appunto, è il frontman della scimmia. Poi abbiamo una domanda sul nome. Però dai, vogliamo iniziare con chiederti della storia che c'è dietro a questa canzone, che Parco Comunale, che ci è piaciuta molto. Allora, intanto vi ringrazio e mi fa piacere che vi sia piaciuta. Che dire, la storia è, non dico esattamente tale quale, ma è successo così. Okay. Io ero a Bologna per lavoro, facevo una sostituzione di maternità, no? Ok. Mm-hmm. Quindi era veramente fantastico, lo dico tranquillamente, perché mi davano delle spese di trasferimento gioiose. Ok. Che lavoro facevi? Io lavoro? No, in quel periodo lì a Bologna. No, ma in quel periodo lì a Bologna facevo il lavoro che faccio tuttora, ovvero lavoro in aeroporto, però non tratto con le persone, quindi con i passeggeri, ma bensì con la merce. Okay. Perché voi dovete sapere che in ogni aereo di linea ci va della merce, insomma, e c'è gente che ce la vuole mettere sopra. Come Freddie Mercury, praticamente. Sì. No, ma non fisicamente, io sto in un ufficio. Okay. Allora un po' meglio. Tipo airport security, più quella roba lì. Nemmeno, ragazzi, non ho a che fare con i passeggeri. Io ho a che fare con dei camionisti. Ma io ti auguravo anche tutta l'ascesa di Freddy. Beh, ragazzi, mi piacerebbe essere bravo come Freddy Mercury. Partendo dagli aeroporti. Non ho un'unghia del signor Mercurio. Comunque eri a Bologna, facevi sostituzione di maternità. Facevo la sostituzione di maternità, sicché mi dicono: Gabri, oggi la giornata è tranquilla, esci fuori, dai, prenditi il pomeriggio. Io non me lo lascio dire due volte e scappo alla velocità della luce. Scusate solo un secondo, che mi è caduta una cosa, solo un secondo. Vai, cosa ti è caduto? Non è caduta la linea. È caduta la scimmia. È caduta la scimmia. Aiuto, mi preoccupo. Che è successo? Sono qui, scusate. No, ti giuro, scusate, in tre anni di radio è la prima volta che mi succede una cosa del genere, è bellissima. Ma io sono un essere particolare, come potete già capire. Giulia, sai cosa mi ha ricordato? Quando per fare l'asino ti metti lì dietro al bancone e fai finta di scendere le scale, no? Cioè, scusate, vado via in cantina un attimo. Prendo una cosa dalla cantina. Bellissima, Gabriele. Lo faccio anch'io con i miei amici quando voglio andare via da situazioni imbarazzanti come queste. Ecco, ne hai fatto la versione radiofonica, bellissimo, ecco, fantastico. Così ci facciamo conoscere subito. Comunque, allora, eravamo arrivati al pomeriggio libero. Dove sei andato? Al pomeriggio libero, me ne sono andato, e sicché era il periodo di Game of Thrones, no? Era finita la terza stagione e io sono andato matto come tutti per quella serie, ma era finita la terza stagione, quindi ho deciso di prendere tutti i libri e di leggermeli tutti. Okay. Quindi vado al parco, mi leggo questo libro, e questo signore arriva elegante, ben vestito, con questo cartone di vino in mano, quindi insomma, e ovviamente ubriaco, non profumava, insomma, il ragazzo non più ragazzo, e ha deciso di raccontarmi la storia della sua vita. Wow, che figo! Sì, è stato parecchio figo, più che altro perché il personaggio era veramente particolare, sembrava di essere in un film di Fellini, era abbastanza strano. Altro che Game of Thrones. Sì, decisamente. È bello che una persona sconosciuta venga da te e ti racconti la storia della sua vita. Cioè, guarda, purtroppo non è la prima volta che mi capita, io li attiro come una calamita, penso di avere una maledizione. Perché noi in alcuni momenti diciamo che, cioè, non è che uno ha sempre voglia di stare a sentire la storia della vita dell'altra persona. Però io mi diverto a parlare con gli sconosciuti, questa è la verità. Ok, e quindi poi da qui la canzone. Ok, ascolta, e invece il nome della band, la scimmia, no? Sì. Ma io e Giulia pensavamo, la scimmia, quando una la scimmia esatto. Si droga, no? Cioè, quella roba lì. Forse anche quel signore aveva un po' la scimmia. Può essere. Aveva la scimmia dell'alcol, in questo caso. La scimmia è effettivamente si può aprire a diverse... diverse aperture, diverse visioni, no? Sì, cioè, diverse interpretazioni. Cioè, può essere la scimmia della droga, la scimmia della festa, la scimmia dell'amore, la scimmia di... ho una scimmia di fare questa cosa qui, cioè, perché c'ho la fissa. Ok. Ecco, la fissa comunque principalmente, può ecco, essere facilmente interpretabile. Lì. Perché siamo a Bologna, se fossimo più o meno da Napoli in giù non avresti potuto dire la fissa, perché dalle nostre parti è un'altra cosa. Lo so benissimo, guarda che i miei sono di origine siciliane, quindi comunque il sud lo bazzico, perciò so cos'è. Okay, okay. Però qui a Bologna si può dire tranquillamente. Certo. No. La fotta. No, sì, ma... La fotta. Sì, avere la fotta. Sì, no, ok, però no, l'altra cosa che dicevamo. L'altra cosa. Poi la spieghiamo un altro giorno. Dai, la spieghiamo un altro giorno. Vero? Ti faccio un gesto, Gardini. Ho già capito. Questa. Sì. Una puntata, visto che usa molto il linguaggio... Il non detto. Sì, una chiacchierata molto poco radiofonica, perché Gabriele sparisce ad un certo punto, io ti faccio i gesti, andiamo lasciamo molto immaginare all'ascoltatore durante questa telefonata. Cosa penseranno di noi? Spero solo cose buone. Ma sì, guarda, siamo così simpatici tutti quanti che va benissimo. Comunque, il pezzo sta andando bene, finora sta andando tutto quanto bene per la scimmia. Ci è piaciuto tanto, Ti farò del male, l'abbiamo ascoltata tante volte. Davvero? Sì. Davvero, ragazzi? Senti, ma ti farò del male, l'hai scritta perché picchiavi la tua ragazza? No, io non picchio e non è assolutamente una canzone. Nonostante il video sia pieno di violenza che ci viene, cioè che ci menano in quel video, insomma, Ti farò del male ovviamente è un titolo provocatorio, okay. visto i tempi meravigliosi che stiamo vivendo e visto la rabbia generale che c'è, abbiamo voluto scherzarci sopra perché sembrano tutti matti, non lo so, se anche a voi, avete questa sensazione, però siamo d'accordo con te, va bene. Allora poi ci sentiamo un'altra volta che ci racconti cosa ti ha raccontato quel signore lì, tutta la vita condensata in un intervento di 5-6 minuti. Gabriele, grazie mille. Grazie a voi. In bocca al lupo alla scimmia e a presto. Salutaci anche gli altri. Salutaci le altre scimmie. Ve li saluto certamente. Ma quindi così parlano tra di loro, sì, quelli della scimmia. Che brutta che era questa. Grazie. Scusaci, un abbraccio Gabriele. Ciao.